Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. La pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. D'accordo? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona domenica da Angelo Vaira, Rosita Celentano. E da Papa Francesco. Sono felice. Non potevamo ignorare le parole del Papa che hanno scatenato un vero putiferio domenica scorsa tra gli animalisti. Che ne pensa Celentano? E non solo. No, allora, io sono d'accordissimo con quello che dice lui. Fra l'altro mi hanno fatto un'intervista sul Tempo.it, il giornale di Roma. Poi lunedì o martedì, non ricordo, anche il programma qui di Radio 24 con Niccolini. Mi sorprende che non l'abbiano capito i non animalisti o gli animalisti stessi, perché... anche a volte gli animalisti, no? Sì. Ma sai cosa? Gli animalisti dicono: ma perché ci devi tirare in ballo gli animali? Allora, premesso il fatto che anche a me non piace quando uno si occupa degli animali ma non si occupa degli esseri umani, no? Certo. Come tu ben sa, come lei ben sa, Celentano. Esatto. Quindi è ovvio, ha ragione il Papa da quel punto di vista. Beh, no, certo, per favore, ragione. No, avete degli esseri umani che hanno bisogno. La pietà e compassione va esercitata anche nei loro confronti. Il punto però qua non è che il problema non sono gli animali. No, non solo, ma poi io azzardo a dire anche una cosa, che quelle persone che lui menziona, che magari si prendono troppo cura degli animaletti di casa, sono un ceto alto che pensa di magari pulirsi la coscienza col cagnolino griffato, con gli Swarovski, queste cose qui, e poi dopo non bada al vicino. Ma allora lei conviene Celentano, perché abbiamo intitolato questa trasmissione Chiedimi se sono felice, perché quel tipo di amore non è amore, è una cosa, è un egoismo, amore egoistico, sì, certo. Esatto. Ma guarda, io intanto a me fa specie quando ogni tanto ci fanno delle domande, no, su questa cosa qua, come se noi animalisti, vegetariani, noi compassionevoli per tutti gli esseri viventi fossimo quelli strani. Ma quelli strani sono quelli che fanno delle distinzioni, che creano specismo, come tu mi insegni, dottor Vaira, su una specie che è più importante di un'altra. No, diciamo, no? Questo, no? Perché il misunderstanding, anche quando sentivo Niccolini, che ti ha intervistato l'altro giorno, è questo. Sembra come se l'amore sia una quantità finita per alcune persone. Sì, esatto. Cioè, io ne ho a disposizione X, se la do a qualcuno, in questo caso gli animali, allora non posso darla ad altri. Ma esatto. Questa è una minchiata, scusate il termine. Come mi ha scritto una ragazza su Facebook a proposito di questa cosa qua, ha detto: non è che l'amore è una coperta che se la tiri troppo da una parte ti scopri i piedi dall'altra. Bellissima metafora. Esattamente. Ha fatto una metafora meravigliosa. Al contrario, l'amore cuce coperte assieme, cioè estendi, cioè la compassione è qualcosa che è uno stato che può essere esercitato agli animali. San Francesco docet. Esatto. Cioè San Francesco che cosa ci insegnava? Che se tu provi amore per il cielo, le stelle, per gli animali, no, per il lupo, fratello sole, sorella luna, cioè, se tu provi amore per loro, questo amore può essere, l'amore nei confronti anche degli esseri umani può essere agevolato. Quindi l'amore che noi possiamo provare per gli altri esseri, se non è egoismo, cioè se non è vado a prendere il cane perché mi fa comodo, vado a prendere il cane perché mi fa sentire così, questo è l'amore che prende, no? Bisogna occupare, il vero amore è quello che dà. Cioè, cosa posso fare io per questo animale? Esatto. Cosa posso fare? Se l'adozione del cane, la vita con un cane, è fatta in questo modo, bene, va a sviluppare quei circuiti neurali che sono preposti appunto a pietà, amore e compassione. Ma anche perché io ho detto una cosa anche al giornale, non è che, cioè, io non so chi frequentano queste persone qua che portano degli esempi assurdi. Chi prova compassione e ha la sensibilità di percepire la sofferenza o il bisogno di qualcun altro, che sia un animale o che sia un essere umano, ce l'ha. Cioè, io se ho un cane e provo tenerezza per un cane abbandonato in strada o trattato male, non è che se vedo un bambino, un adulto, una persona in difficoltà mi volto dall'altra no, certo. parte. Mentre il contrario capita più frequentemente. Capita più frequentemente. Cioè c'è chi invece non gliene frega niente, tanto quelli sono animali, tanto comunque non sta male e comunque devono essere al nostro servizio. Vedi quelli che prendono gli animali nei circhi, vedi quelli che trattano male gli animali, anche gli animali da macello, perché, perché è la qualità della vita che fa l'animale che deve essere dignitosa e rispettosa. Certo. Mentre ne stiamo parlando, io Rosita Celentano, vi ricordiamo che la nostra mail è chiedimi se sono felice @radio24.it, perché se volete intervenire su questo argomento, la prossima puntata magari possiamo anche dare voce. Certo, vi telefoniamo. Ora, il punto quindi qui, cara la mia Rosita Celentano, è la formazione del cristiano. Le distanze, vai, chissà che gli ho fatto. Dica. No, niente, per avere una certa formalità, visto che siamo in radio, insomma, condividiamo casa e letto ogni giorno, qui vorrei un po'... Letto? Vabbè, perché è una novità. Vabbè. Eccoci, ecco. Che appunto, giusto. Guarda, appunto, lasciamo stare. Che abbiamo passato una domenica sera che il domandone era questo a Vaira. Vedi che gli è crollata la barba, ce n'ha meno. Ecco, diceva, appunto, dottore? Dicevamo, dottore, che ecco, bisogna fare attenzione invece, con le parole di Papa Francesco, alla formazione del cristiano. Cioè qui il problema non è se uno si tira in casa l'animale a cui presta attenzione, perché questo semmai può agevolare l'amore anche nei confronti delle altre persone, degli esseri umani. Il problema è la formazione del cristiano. Esatto. Quindi le parole di Papa Francesco a me piacciono. Cioè anche a me bisogna piacciono. Evitare di fare differenze. Questo, visto che io me ne occupo del vicino di casa, non me ne frega nulla, perché questo evince anche un amore nei confronti dei nostri amici che purtroppo non è un amore sano. No, cioè laddove uno si occupa soltanto dei propri interessi non si va ad occupare del cane, non chiede al cane che cosa ti rende felice. Io sono d'accordissimo con Papa Francesco, un papa che io amo alla follia, non potrebbe essere che così, visto che si è deciso di chiamarsi Francesco come San Francesco. E poi basta guardare anche l'enciclica, molto, è il primo papa che parla tanto del mondo, di ecologia, di ecosistema, di proteggere. Esatto. Quindi con questo vi lasciamo. Bravo, un attimo, Papa Francesco. Una piccola pausa, ci vedremo ci risentiamo subito dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E siamo sempre qua in Radio 24. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Mi raccomando, scriveteci, perché vi chiamiamo, vi leggiamo. Senta, Celentano, le piacciono i levrieri? Mi pizzica sì, ne ho avuto anche uno che non lo voleva nessuno, 5 mesi, forse è stato risparmiato a qualche corsa. Il levriero Greyhound si chiamava Guadalupe, ma la chiamavamo tutti Lupe. Le corse per cani ti piacciono? No, le odio. Le odi? Perché le odi? Tutto ciò che è sfruttamento animale a me fa orrore. Figurati, lì poi ci sono anche giri di scommesse, ci sono giri... No, allora, facciamo questa informazione per le persone che normalmente vedono le corse dei cani in qualche film. Ma mica esistono in Italia? Adesso ne parliamo bene, okay. Ma sai, tu quando li vedi nei film, no, queste corse, i levrieri, tutti quanti, che bello, questi levrieri che sfogano, insomma, questa loro natura dietro le prede, anche se finte, eccetera. Allora, ne parliamo con un'esperta da questo punto di vista, si chiama Stefania Traini. Ciao Stefania, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Stefania. Allora Stefania è presidente dell'associazione Pet Levrieri, che si occupa proprio dei cani, dei levrieri, che sono stati sfruttati, forse il termine giusto, ci spiegherà meglio lei, nelle corse, giusto? Sì. Assolutamente sì. Cioè, da che cosa che vi ha motivato a fondare questa associazione? Beh, cosa vi ha motivato, posso capirlo e condividere anche fai, senza fai in modo che aspetta, parli ma capire. Ma ha sembrato Aldo Giovanni posso capirlo, e Giacomo, posso è sembrato... capirlo. No. Dire... Ma grazie, lo so che sentiamo lei, però scusami Stefania, cioè abbiamo un attimo di Sandra Raimondo, ma ci mancherebbe. Allora, noi siamo un'associazione Onlus che effettivamente ci occupiamo, quindi anti-racing, quindi anti-corse, anti-caccia. Sì, e anticaccia, che ci occupiamo dei levrieri, quindi Greyhound, Galgo e Lurcher, che vengono sfruttati nel mondo delle corse legate al gioco d'azzardo in Regno Unito e Irlanda, e nel mondo della caccia, vista la lepre, in Spagna. Perché ci occupiamo di questi cani? Perché no, in realtà è una domanda che molte persone ci fanno, perché anche in Italia ci sono tantissimi cani che hanno bisogno di aiuto, perché quello che accade è un vero e proprio sterminio nel cuore dell'Europa. Cioè, tenete conto che, e sono cifre di indifetto molto spesso, che abbiamo a che fare con qualcosa come 20.000 greyhound che scompaiono e quindi vengono soppressi tra Irlanda e Regno Unito ogni anno e qualcosa come 50.000-60.000 galgo che vengono eliminati a conclusione della stagione venatoria ogni anno in Spagna. Non ci credo. Quindi si parla veramente di uno sterminio, perché sono qualcosa come 80.000 cani all'anno. Ecco perché noi abbiamo deciso, siamo in realtà un gruppo di adottanti, quindi innanzitutto all'inizio abbiamo adottato uno di questi cani, che poi abbiamo deciso di tramutare. Però, aspetta, quello che è stato, Stefania, all'inizio. Prima di farti andare avanti, no? Chi ci sta ascoltando si potrebbe chiedere, ma che vuol dire spariscono e vengono eliminati? Perché vengono eliminati? In che modo vengono eliminati? Sì, perché è un'industria. Io sottolineo sempre, quando parlo con le persone, questo aspetto. Tenete conto che si tratta di una industria legata ad una logica di profitto. Quindi, fino a quando il cane per me è fonte di reddito e di guadagno, quindi per il proprietario e per il trainer, l'allenatore per quanto riguarda i greyhound, o il cacciatore chiamato galgheros per quanto riguarda i galgo, allora quel cane per me è una fonte di reddito e quindi lo sfrutto. Lo sfrutto poi, tra l'altro, in una modalità che diventa anche maltrattamento. Quindi cosa vuol dire? Che poi una volta che non caccia più bene, oppure non vince più le corse, è un costo inutile e quindi viene eliminato. Se è fortunato, ma questo può capitare anche un anno, può capitargli come cucciolo, perché il concetto è questo: già le cucciolate vengono pianificate a tavolino, quindi la riproduzione non è un atto spontaneo tra una femmina e un maschio, avviene tramite un'inseminazione artificiale. Si prende il stallone che è stato un ex campione e la fattrice che anche lei è stata un ex campionessa, e li si fanno riprodurre perché è l'attesa che da loro possono nascere futuri campioni. Nei primi 3 mesi di vita già lì vengono eliminati tutti i cuccioli che non hanno quelle caratteristiche fisiche e psicologiche che fanno presumere che potranno diventare nel futuro dei campioni. Quindi voi potete avere dei cuccioli perfettamente sani e che sarebbero anche dei meravigliosi animali d'affezione, perché equilibrati, socievoli, simpatici, affettuosi, che vengono eliminati. Come vengono eliminati? Con una eutanasia? Allora, se sono fortunati, tramite l'eutanasia. Però anche qui, molto spesso non vengono eliminati con l'eutanasia e si opta per metodi molto più cruenti, quindi anche violenti, e quindi non rispettati in morte, perché sopprimerli con l'eutanasia costa non tanto l'iniezione, ma lo smaltimento del cadavere connesso. E quindi, ancora una volta, una logica di profitto, mi costa, opto per le soluzioni che sono meno costose. Ma giusto, allora, per aderire alla realtà, se non usano il Tanax o barbiturici, così, che cosa usano per sopprimere? Può essere una revolverata in testa, può essere che gli spaccano gli spezzano le zampe anteriori in maniera tale che non riescono più a muoversi e procurarsi il cibo, li lasciano legati ad un albero, li impiccano ad un albero. Questa è una pratica che riguarda però i galgo, non i greyhound, è il cosiddetto rituale del pianista, che è una pratica diffusa soprattutto in alcune regioni della Spagna e dove dietro c'è anche un significato simbolico, cioè sostanzialmente il galgheros appende ai rami degli alberi i galgos alla conclusione della stagione venatoria, e se il cane è stato un buon cacciatore lo appende ad un ramo in alto in maniera tale che la sua morte sia rapida. Se invece ritiene che le sue prestazioni sono state non all'altezza delle aspettative, lo appende a un ramo più basso. E perché pianista? Perché l'agonia è accompagnata da questi tentativi disperati, no? Con le zampe, di aderire al terreno per ovviamente allentare la presa sul collo, e sembrano le mani di un pianista. No? Intanto ti avviso che Rosita si è tolta la cuffia, si sta soffiando il naso. Questo già per dire a casa. E meno male che non ha ascoltato questo tuo ultimo pezzo, perché si chiama Rituale del pianista, ma è bene che a casa lo sappiano. Sì, perché ahimè è ancora una pratica diffusa, e tenete conto che vengono anche ammazzati affogandoli. Cioè, i metodi, quando diciamo cruenti, non sono per esagerare, perché siamo coinvolti emotivamente, sono realmente, obiettivamente cruenti. E poi la cosa che mi colpisce è la cultura che c'è dietro. Cioè, se un cacciatore, un proprietario di questi cani, ritiene che deve appenderlo ad un ramo più o meno alto a seconda di quanto lui abbia reso in carriera, cioè ci rendiamo conto, perché ovviamente il cane che colpa ha, cioè non ha una colpa in questo. Però pensa, loro si vendicano in questo modo: visto che non mi hai reso così come le erano le mie aspettative, io mi comporto in questo modo. Poi prego Peter di recuperare quella frase di Gandhi, sai, il progresso morale, perché tra poco lo facciamo ascoltare. Sì. Abbiamo una bella prego chiunque voce. Che a queste persone venga fatto lo stesso identico trattamento. No, sì, no, sì, non me ne frega niente. Guarda, mi prendessero come esempio, ma sono stanca, dai, ma non si può, ma lo è assurdo. So che sei stanca, ma è assurdo, il fatto ma non mi interessa. Ma no, lo dico, lo penso anche. Però, cioè, ti dico la verità. Perché fai hai lo stesso atteggiamento che hanno loro. Ma no, ma non lo faccio io, ma la natura li renderà quello che fanno. Uno raccoglie quello che semina, ma non è possibile. Sentiamo Stefania. Volevo dire questa cosa. Il problema è che molto spesso è molto importante tenere conto che si ha a che fare con un'industria e che dietro l'industria è fatta da uomini. No, però dietro a questa industria c'è anche poi tutta una determinata immagine di questi cani che viene promossa e che quindi diventa anche diffusa tra l'opinione pubblica. Cioè questa idea che sostanzialmente i Greyhound non sono cani, no? Sono simili a dei trattori, oggetti di profitto. Ma non giustifica l'uomo che fa queste azioni, scusami Stefano, non le giustifica. Ma è questo che sto dicendo. Il problema è proprio che nei paesi in cui vengono praticati questo tipo di le corse legate al gioco d'azzardo e la caccia vista, il grosso del lavoro che occorre fare sia le associazioni interne che noi dall'esterno è proprio quello di cambiare il modo di pensare e di rapportarsi. Ma io sono d'accordo. Proprio rispetto di Stefania, base sono d'accordo e sono felicissima che ci siano persone come te, che ce ne siano sempre di più. Però ti dico la verità, non ci sono più scuse. Oggi l'essere umano, l'uomo, visto che teoricamente ha più concezione delle bestie, dovrebbe decidere se stare dalla parte della soluzione o del problema. Non è più giustificabile che un essere umano tratti un altro animale in questo modo. È vero. Cioè, ti giuro, guarda, no, non me ne frega un cavolo. Ma guarda, è assurdo. Che su questo siamo tutti d'accordo. E non me ne frega se io sono impopolare nel dire che auguro alle persone, uno deve raccogliere quello che semina, basta, quello che si fa ai bambini, agli anziani, alle persone deboli. Non ci si può rifare su chi è in difficoltà, qualunque essere vivente che sia. Che non assolutamente. No, siamo d'accordo, però poi ci tacciano a noi che difendiamo gli animali, siamo quelli strani. Ma che sono strani gli altri, non sono strana io. Allora, stiamo confondendo un pochino le cose, però. Tutto quello che hai detto va bene. La cosa sulla quale io mi oppongo è che bisogna fare le stesse cose. Non loro, ho detto perché non bisogna è questa fare, la soluzione. Mi auguro. Non Ora, ho detto parlando bisogna di soluzione, fare. Stefania, che ma cosa posso perdere scusami, una volta io nella che vita? Cosa proponete voi? Sì, perché sennò poi non facciamo parlare Stefania e quindi l'azione che le persone possono fare per contrastare questi fenomeni. Assolutamente. Cosa allora, quello che possiamo fare noi tutti, è ovvio che più siamo più possiamo poi incidere sulla realtà, è innanzitutto lavorare in collaborazione con le associazioni nei paesi di origine, cioè dove queste pratiche sono legali, per ottenere sia leggi di tutela nei confronti dei greyhound e gaggo e quindi ottenere sostanzialmente che vengano vietate le corse e vengano vietate la caccia vista con i gaggo e conseguentemente oltre a leggi che vietano tutto ciò ci deve essere anche la certezza della pena, cioè il fatto che chi trasgredisce queste leggi deve essere effettivamente punito e le pene devono essere adeguate. Capite che perché ci sono già alcune leggi, però non vengono applicate e le pene sono talmente ridicole che conviene più pagare, non so, una multa che è irrisoria che esatto. non è rispettare come, le come regole. Si fa in Italia per alcune altre leggi. Quindi questo è un grosso problema. L'altra cosa importante è proprio fare un grossissimo lavoro culturale. Infatti noi facciamo molta divulgazione, ma non è solo noi, proprio tutto il movimento anti-racing, anti-caccia a livello internazionale, perché occorre proprio creare un'opinione pubblica nei paesi di origine e anche internazionale che sia di condanna ferma nei confronti dell'industria. E vorrei aggiungere un'altra cosa, attenzione perché ci sono associazioni, quote dell'opinione pubblica che magari anche ingenuamente ritengono che occorra collaborare con l'industria delle corse o collaborare con l'industria della caccia sperando in un cambiamento interno. Ma non funziona questa logica, perché in realtà l'industria delle corse, sia in Irlanda che in Gran Bretagna, hanno già un'autoregolamentazione interna, riconosciutagli dai governi rispettivi. Allora Stefania, abbiamo esaurito il tempo, ma rimani con noi perché dopo la pausa riprendiamo il discorso. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci, musichetta divertente, ma argomento drammatico. Io sono c'è a pezzi. Qui la Rosita che piange, si arrabbia e vorrebbe picchiare qualcuno. No, picchiare no, perché non voglio mettermi alla stregua di queste persone qui. Ma ti dico però la verità: ma confido in qualcosa di divino, in una legge divina, che uno raccoglie quello che semina. Tanto ora stanno seminando e raccoglieranno, e spero che raccolgano parecchio. Allora, dopo questo sfogo di Rosetta, no, perché poi scusami, per chi no, si fosse scusa, appunto, dimmi. Stiamo parlando dei levrieri, poi ve lo spiega meglio. Ma io ribadisco una cosa: io giudico le persone dalle azioni che fanno, e non ci sono più scuse. Non ci sono scuse quando uno è crudele per profitto, per ignoranza, per sentirsi figo, come tutte quelle cose, per sentirsi uomini lì, non mi ricordo in quale isola, che prendono, che massacrano i delfini, li incastrano in una baia. Poi dopo parleremo anche di quello, ma come si fa a rimanere indifferente? Allora, vi spiego perché Rosetta Celentano è così presa oggi. Perché, per chi si fosse collegato adesso, abbiamo parlato di levrieri, abbiamo parlato delle corse dei levrieri, abbiamo parlato che è un'industria che causa la morte soltanto in Europa di 80.000 di questi cani. Tante volte in piena salute, anche cuccioli, vengono a volte sparati, a volte c'è un'eutanasia con medicinali, tante volte vengono impiccati in modi più o meno cruenti a seconda di quanto hanno reso nella loro carriera. E allora Rosita dice giustamente: poi quelli strani saremmo noi animalisti. E in realtà... Sì, perché ci fanno le domande, ci fanno le interviste, i cervelloni qui, i diversamente intelligenti, ci fanno le interviste, perché noi siamo strani, siamo fenomeni da psicologia. Canalizzare. Esatto, e invece il problema qui è soltanto quanto sei compassionevole, quanto sei informato sulle cose, perché sapendo una cosa del genere nessuno dovrebbe rimanere fermo. Ne stiamo parlando con Stefania Traini. Ciao Stefania. Ciao a voi. Scusami Stefania, ma ti dico la verità. Stefania è presidente di Pet Levrieri, che è un'associazione che si occupa proprio di contrastare questo fenomeno, per chi si fosse collegato adesso. E stavi finendo un discorso forse, Stefania, non so cosa volevi aggiungere. Sì, una precisazione prima: sono 20.000 greyhound all'anno che vengono soppressi e 60.000 galgo, perché sono poi due mercati differenti. Okay, okay. E stavo facendo il discorso sull'autoregolamentazione, che molti propongono un dialogo con l'industria delle corse per lavorare sull'autoregolamentazione interna di questa industria. È in realtà un approccio che non funziona, perché di fatto l'industria delle corse, sia in Irlanda che in Gran Bretagna, ha già la possibilità di un'autoregolamentazione che gli è riconosciuta dai rispettivi governi. Cioè dovrebbero darsi delle regole che garantiscano il benessere e la sicurezza dei cani. Ma una contraddizione nei termini, perché la logica del profitto è in antitesi con una logica di benessere e sicurezza. Il benessere e la sicurezza costa, è antieconomica. E peraltro i dati che noi disponiamo, appunto, sul numero di cani che vengono ammazzati, 20.000, lo ripeto, sugli incidenti sulle piste, sul tipo di vita che fanno, adesso non abbiamo tempo, ma ci sarebbe molto molto da raccontare, sono una quotidiana violazione del benessere, no? Ma scusa Stefania, sì, esatto, vorrei... cioè non è soltanto il modo in cui muoiono, è anche il modo in cui vivono. Allora esatto. Tenete conto che tutta la loro vita è impostata nell'ottica dell'allenamento, della preparazione alle corse e delle corse. Questo cosa significa? Che già il primo anno di vita di questi cani, che ben sappiamo quanto è importante, lo è per l'umani, figuriamoci anche per i cani, tutta l'età evolutiva, no? Quindi l'infanzia e l'adolescenza, certo. Tutta la dimensione del gioco, della socializzazione tra pari, della costruzione di un rapporto affettivo paritetico con l'umano, viene totalmente impedito e ostacolato, perché i cani non devono essere cooperativi tra di loro, devono diventare competitivi tra di loro, perché certo. Saranno atleti che si contenderanno la vittoria. No, questo per far capire anche a chi ci sta ascoltando: io ho lavorato diverse volte con cani recuperati dalle corse, per lo più nel mio caso, poi mi contattano ovviamente quando hanno dei problemi, si tratta di cani che sono stati sottostimolati, privati sensorialmente, privati di esperienze, e quindi terrorizzati da tutto. Cioè, mi ricordo uno che praticamente, a parte la sua camera, e aveva paura addirittura di andare in giardino le prime volte. Questo perché non aveva vissuto una vita normale, il suo cervello era così povero. Scusa Stefania, sì, ma io voglio capire una cosa in tutto ciò. In sì, Italia non ci sono queste corse, almeno no, allora, in Italia l'ultimo cinodromo è stato chiuso nel 2002, quindi figurati, attualmente in Italia le corse, attenzione, le corse commerciali, quindi legate anche al sì, gioco d'azzardo, sì, sono vietate. Le corse amatoriali, per esempio il cursing amatoriale, ahimè, è consentito e praticato. Ma scusami, quindi anche le corse amatoriali, cioè abbiamo un problema analogo anche nel cursing amatoriale? E in parte sì, ovviamente in dimensioni ridotte, perché ovviamente lì non c'è un business tale per consentire, sì, però se facciamo un discorso evoluto legato al benessere dei cani, uh-huh, il cursing è comunque una pratica che non è che è molto compatibile con il benessere dei cani, okay, perché vabbè, allora, però sicuramente sono due cose totalmente diverse. Chiuderei un attimo la parentesi del cursing per tornare invece sul tema. Allora, si è evoluto dal Medioevo, cioè stiamo peggiorando. Celentano, ci fa parlare dell'azione, che cosa vogliamo fare? Ecco, appunto, l'uomo non si è evoluto dal Medioevo, perché nel Medioevo, come abbiamo visto tante volte, gli animali venivano trattati anche meglio. Appunto. Allora, nell'immediato, per esempio, cosa sta succedendo in questo momento, no? In questo momento sono state a livello internazionale, c'è una mobilitazione da parte di tutte le associazioni antiressine per impedire l'esportazione di greyhound irlandesi nel cinodromo di Macao. Uh-huh. Il cinodromo di Macao è il peggiore cinodromo al mondo, da lì non esce vivo nessun cane. E, perché è stato, allora, questo traffico in realtà si sa che esiste, però l'importante è che in questo momento è stato sventato proprio e bloccato un trasporto che era appunto in partenza di 24 greyhound, che era in partenza per la Cina. Appunto come movimento antiresi internazionale stiamo organizzando una pressione sul governo irlandese per indurre il governo e anche l'ente corse, che si chiama IGP in Irlanda, a vietare e punire l'esportazione dei greyhound in Cina, perché lì sicuramente verranno prima maltrattati e poi ammazzati. Quali sono gli appuntamenti in questo momento? Chiunque volesse, allora, ci sono alcuni appuntamenti internazionali a Londra e in Irlanda, che potete trovare anche sul nostro sito. In Italia noi organizzeremo una giornata dedicata a questo, che è il 28 maggio a Cesate, in provincia di Milano, dove manifesteremo proprio per esprimere la nostra presa di posizione contro tutto questo, e soprattutto nell'ambito di quella giornata dedicata proprio a spiegare quello che accade ai greyhound irlandesi, avverrà anche la consegna di 20 greyhound che vengono dall'Irlanda alle loro famiglie adottive. Per cui invitiamo tutti gli ascoltatori, soprattutto chi è della Lombardia o delle regioni vicine, quindi tali che possono raggiungerci, a partecipare. Chi non potesse partecipare, anche proprio per ragioni logistiche, può andare sul nostro sito, petlevrieri.it, giusto? Esatto, petlevrieri.it, dove ci sono una serie di petizioni che sono state lanciate proprio per avvalorare, rafforzare questa pressione sul governo, e anche per richiedere ad una compagnia aerea, che è la Lufthansa, che fa voli dall'Irlanda ovviamente a Hong Kong in Cina, per poter poi portare i greyhound sostanzialmente a Macao, per chiedere alla Lufthansa di rifiutarsi di trasportare questi cani. In più abbiamo lanciato una petizione rivolta all'ambasciatore irlandese in Italia affinché a sua volta manifesti che gran parte del popolo italiano, insomma, confida che l'Irlanda e il popolo irlandese faccia una scelta di civiltà, no? Esprimendo appunto un'opposizione a questo, perché guardate che oltretutto l'Irlanda è un paese ricco culturalmente, cioè è un paese di grandi risorse, è un paese dove ci sono anche lì è legale, giusto? Sono legali le corse, lì è tutto purtroppo legale. Allora il ti faccio parlare tra poco, anche perché so che la vostra associazione fa anche altre cose oltre che le petizioni, e pregherei Peter di mandare la frase di Gandhi, che in questo caso è all'uopo, perché se è vero che bisogna interloquire con l'ambasciata perché questo popolo, il popolo irlandese, possa rendersi conto che è un atto di civiltà proibire queste corse, sentiamo qual è l'opinione di Gandhi. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono valutare dal modo in cui tratta gli animali. Mahatma Gandhi. Ecco qui, quindi una breve pausa di riflessione, no? Perché ci sta ascoltando, perché effettivamente proibire questo genere di corsi a questo punto, con quello che avete sentito oggi da Stefania Traini, è un atto di civiltà. E poi dicevo, Stefania, magari volevi chiudere un concetto, io ti avrei chiesto che cos'altro fate come pet levrieri, non so. Sì. Allora sì, noi il grosso della nostra azione è sulla denuncia e sull'informazione, perché abbiamo detto che dobbiamo cambiare lo stato dell'arte. Sì. Poi ci occupiamo anche di adozioni, quindi di trovare famiglia a Greyhound e Galgo che vengono appunto salvati da questo mondo. E quindi c'è poi tutto un lavoro anche di post-adozione, quindi di accompagnamento dalle famiglie nell'inserimento, ma anche un grosso lavoro, e qui per esempio tutto il mondo della cinofilia, dei professionisti in ambito cinofilo, per noi sono dei grandissimi alleati, perché uno dei nostri intenti è anche quello di promuovere, ma qui abbiamo bisogno di persone competenti che ci aiutano, una cultura anche più evoluta sui levrieri, cioè nel senso di dotarci di strumenti per poterli conoscere meglio nella loro psicologia, certo. Perché rispettarli significa anche conoscerli meglio, no? Perché non si può rispettare un altro soggetto vivente se non ci si prende la briga, certo, di conoscerlo. E non lo, no? Può neanche aiutare. Cioè, per dire, se uno vuole adottare un levriero e andare ancora convinto che debba essere il capobranco che sottomette, diciamo che non è proprio bene sulla strada giusta. No, no. E poi c'è quest'altra cosa molto importante che molto spesso le persone mi chiedono: ma se io adotto un cane come questo, col passato difficile che ha avuto, come faccio? Come faccio a inserirlo nella famiglia o altri cani o bambini, vivo in città, insomma, così via. In realtà questi cani hanno una straordinaria capacità di recupero. Straordinaria. Bene. Quindi in realtà riescono a inserirsi con grande facilità. Dopodiché, appunto, c'è sempre la possibilità di farsi accompagnare e aiutare da educatori, dove non si tratta di fare chissà quali lunghi percorsi assieme ai propri cani, ma di avere qualcuno che ti dà quelle coordinate per saper leggere il tuo cane che hai di fronte, e quindi per goderti molto di più la relazione. Fantastico. Perché se tu riesci a metterti in sintonia, questi cani ti danno talmente tanto, e la riprova è che noi abbiamo tantissimi adottanti che dopo aver adottato il primo levriero ne adottano un secondo. Un secondo. No? Perché scoprono un mondo, scoprono che effettivamente sono dei grandi animali d'affezione. Allora, Stefania, e vanno molto d'accordo in gruppo. È finito ancora il tempo, ti prego di aspettare, aspettate anche voi in onda, riparliamo tra poco ancora di levrieri con Stefania Traini dell'Associazione Pet Levrieri. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Senti, io oggi per me è una domenica molto difficile, difficile a livello emotivo. Pensate, è anche arrabbiata con me. Sì, sono anche arrabbiata con te quando mi azzittisci, che dico che spero che uno raccolga quello che semina, e non posso soffrire per chi provoca sofferenza. Mi dispiace, no, per ma lui. Non è che ti azzittisco, che sono di un'opinione contraria. Sì, non, ecco, voglio appunto aggiungere sofferenza a sofferenza. Anch'io non la voglio aggiungere, ma se tu l'aggiungi, posso. Vuol dire, comunque, di base sai che c'è, che un animale, una bestia, non farebbe mai delle atrocità come riesce a fare l'essere umano. Questo è poco ma sicuro. Allora, perché quindi, si fosse collegato adesso? Io voglio Celentano, essere una bestia, datemi della bestia. Appena saputo da Stefania Traini, che è in linea con noi, è presidente fondatore dell'associazione Pet Levrieri, che qual è il terribile, sì, che cosa succede nel mondo delle io corse? Io giuro, non lo sapevo, cioè Stefani, io sapevo, immaginavo che ci fossero delle atrocità, ma t'assicuro non a questo punto. No, oltretutto non pensavo che l'Italia pure continuasse a fare queste bestialità, che grazie a Dio dal 2002, hai detto, non si fanno più? Sì, 2002 è stato chiuso l'ultimo cinodromo. Ma che un paese come l'Inghilterra, con la regina tutta bella, sempre ordinata, con i suoi cagnolini, tutta, cioè, voglio dire, ma ragazzi, ma dove, ma l'uomo, dov'è, che gli scelta dice il cervello? Ma perché bisogna correre dietro a questo profitto? Profitto, il profitto ci sta seppellendo, e ce lo meritiamo. Chi non se lo merita sono gli animali, gli esseri che, come i bambini che subiscono passivi le atrocità dell'uomo, come gli anziani, come tutti quegli esseri poveri cristi che non sono abbastanza forti da potersi difendere. Senti, certo. Stefania, eravamo arrivati ad un dunque, cioè voi come associazione favorite anche l'adozione, cioè se ci sono delle persone che ci stanno ascoltando, che stanno pensando di adottare un cane, potrebbero rivolgersi a voi. Assolutamente sì. Se sono interessati vanno sul nostro sito www.petelevrieri.it nella sezione adozioni, compilano un modo che è un modulo con una richiesta di adozione dove danno tutta una serie di informazioni di base sulla loro famiglia, sul loro stile e ambiente di vita. Dopodiché nell'arco di 24 ore vengono contattati da un nostro socio che avvia l'iter di adozione, quindi c'è un'intervista telefonica, se si conclude positivamente una visita preaffido a casa. La visita preaffido a casa è essenziale, innanzitutto perché ci facciamo conoscere anche noi, che è importante per le famiglie. In secondo luogo perché noi conosciamo le famiglie, quindi siamo poi in grado di capire se ci sono sia le motivazioni giuste, ma anche il tipo di organizzazione della famiglia e della vita idonea ad accogliere un cane. Meraviglia. In generale un cane. Nello specifico poi un levriero recuperato dalle corse della caccia. Se la visita e preaffido si conclude positivamente, si va poi a individuare quale tra i cani in adozione può essere adottato da questa famiglia, cioè tale per cui il cane si trova bene in quella famiglia e la famiglia si trova bene. Meraviglioso. Bene con meraviglioso. Lui. Stefania, bene, io finalmente io ti delle ringrazio, adozioni responsabili. Guarda, io ti voglio ringraziare perché speriamo che molta gente capisca e che ci si attivi. La cosa che a me preme adesso è capire come potersi attivare, come poter far arrivare il messaggio a chi può cambiare veramente le cose. Sì. Guardate, più persone sanno, più persone possono veramente tramutare la loro consapevolezza in un impegno civile. Siamo partiti tutti da lì, all'inizio eravamo tutti ignari e poi da lì siamo. Allora, vi ricordiamo che sabato prossimo 28 maggio Pet Levrieri vi aspetta in un evento. Andate sul sito www.petlevrieri.it per saperne di più. Ciao Stefania Trani, grazie mille. Grazie ciao. A voi, veramente ciao. Miliardi di persone come Stefania ci vorrebbero. Eh sì. Amore, mi spiace che... Sulle palle pure la regina adesso. Lo so, mi spiace vederti così. Stanno oggi. Stanno tutti sulle palle oggi. Chi? Peter, mi sta suggerendo qualcuno? Sì, se allora, qui non parli di ciufoli. Allora, siamo partiti da Papa Francesco. Lui ci ha ricordato che oltre all'amore per gli animali bisogna nutrire anche amore per gli esseri umani. Diciamo che la formazione del cristiano, in questo caso, è la cosa che è mancante. Diciamo che io vorrei poter arrivare a mandare una lettera a Papa Francesco. Non ho la presunzione di poter arrivare a parlarci, ma a meno che legga una lettera. Perché cioè, io veramente sono basita dal fatto che viviamo in un'epoca dove si fanno ancora delle cose. Poi uno dice nel Medioevo succedeva, ma non è vero. Oggi succede peggio. Oggi succede peggio. Almeno all'epoca erano ignoranti, lo facevano per stupidità, per ignoranza. Oggi cacchio lo fai per un profitto. È una roba allucinante, ma veramente... Quando si dice vendersi l'anima. Io dico sempre che ci dobbiamo estinguere come i dinosauri. Poi ora riportatevela questa frase, fateci una trasmissione su questa frase: dobbiamo estinguerci come i dinosauri. Ecco, questa è l'altissima opinione di Rosita. Sono incazzata Celentano. Nera io oggi mi si è rovinata la domenica. Sì, perché tu non sai quanto ci rimugino adesso. Io divento una pazza scatenata. Il punto è esattamente questo: da emozioni del genere derivano anche grandi azioni, cioè se uno utilizza bene la rabbia e la frustrazione che prova, ecco che nascono delle azioni come Stefania Traini e suo marito che hanno fondato Petra Levrieri, tutte le persone che hanno loro tutta la mia stima, allora, tutto il mio amore, brava, tutto il mio appoggio a tutte le persone come loro, che tutti quelli che hanno compassione e sensibilità verso chi non ce l'ha, verso chi è in difficoltà. E quindi noi vi invitiamo, se ci avete ascoltato e se effettivamente vi siete anche a voi vi si è smosso qualcosa dentro, di fare qualcosa, tramutare questa indignazione in azione, altrimenti non succede nulla. Per concludere, adesso tiriamoci su con la ricetta di Mara Di Noia, che ci ha fatto una ricetta tutta colorata oggi. Sentiamo e noi ci sentiamo domenica prossima. Chiedimi se sono felice @radio24.it. Ciao. Piatti e ciotole. Oggi vi regalo una ricetta che ho chiamato arcobaleno di salute. È un vero e proprio concentrato di energia e vitalità per tutta la famiglia. Vi occorrono 320 g di farro decorticato lessato in precedenza, 150 g di lenticchie rosse che sono decorticate e sarebbe meglio averle già lessate, 2 zucchine tagliate a julienne, 2 carote tagliate a julienne, 2 gambi di sedano tagliati fini fini, 2 cucchiai di olive taggiasche denocciolate, basilico tagliato grossolanamente e anche del prezzemolo, un cucchiaino di olio d'oliva extravergine e della granella di nocciole tostate. come sempre un pizzico, ma proprio un pizzichino di sale. Cosa dovete fare? Praticamente scaldare una padella antiaderente versando il cucchiaino di olio d'oliva e lo potete stendere con della carta da cucina in modo tale da togliere veramente l'eccesso. Versare le zucchine, le carote e il farro lessato, aggiungete le olive e il sedano e cuocete per pochi minuti, giusto il tempo per far amalgamare i sapori. Alla fine si potete aggiungere le erbe aromatiche e le lenticchie lessate. Alla fine, sia per il piatto che per la ciotola, potete spolverare con la granella di nocciole tostate. È un arcobaleno di salute pronto in pochissimi minuti e apprezzato da tutta la famiglia, che ci dà anche l'occasione di conoscere le lenticchie rosse, che sono un seme, quindi un legume. Come tale la natura l'ha protetto con una buccia molto dura, quindi è per quello che prendiamo le lenticchie decorticate, che sono molto più digeribili e possono essere utilizzate da coloro che si avvicinano alla cucina vegetale da poco tempo. Sono ricchissime di proteine, pensate che 100 grammi di lenticchie contengono 25 grammi di proteine, che è praticamente di più della carne di tacchino. Sono molto povere di grassi, soltanto il 3%, quindi è una ricetta molto nutriente ma molto leggera, come quelle che piacciono a me, è adatta a tutta la famiglia, ma dai più piccoli ai più anziani, è perfetta per i nostri animali ed è anche molto digeribile per i nostri animali. Con questo tipo di alimentazione non dovrete assolutamente preoccuparvi delle carenze proteiche, che sono un falso mito della nostra alimentazione moderna, perché in un piatto del genere è contenuto tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Io vi saluto e vi ricordo che questa ricetta potete trovarla anche su www.vegachef.it. Ciao!